Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Bentrovati, benvenuti, Luca Tremolada, 16:35 minuti. Oggi parliamo di una cosa che a me piace molto, è le class action digitale, cioè la capacità che ha di internet di convogliare attraverso le firme in poi il pensiero, anche le pressioni di gruppi di persone, di semplici cittadini. Il titolo di questa puntata è Cittadinanza Attiva e insomma abbiamo con noi Giampaolo Colletti, che è un cittadino attivo vero. Buon pomeriggio Luca, ho scoperto che tanti cittadini sono attivi perché le firme online si moltiplicano in Italia, poi magari qualche curiosità te la dirò perché in rete si moltiplicano queste mobilitazioni popolari. Sì, che poi più che un fenomeno diventa un'opportunità. Parleremo oggi con Andrea D'Ambra, apriremo la valigia blu di Arianna Ciccone, l'ottima Arianna Ciccone, ma prima le news. L'FBI ha aperto un'inchiesta sulla violazione della sicurezza dell'iPad che ha messo a rischio le informazioni personali dei clienti Apple. Grande imbarazzo per la Apple e per la AT&T, che ha l'esclusiva per i suoi prodotti telefonici negli Stati Uniti. Ma i guai non sono finiti. Secondo il Financial Times, l'antitrust americano intende indagare su delle possibili barriere poste da Apple per impedire ad alcuni rivali, come Google, di mettere proprie pubblicità su iPhone, iPad e iPod. In attesa dell'E3, la più importante fiera del videogioco che aprirà a Los Angeles i battenti lunedì prossimo, a Milano 5.000 videogiocatori si sono dati appuntamento per la Video Games Part, una due giorni di tornei di ogni genere, dal mitico Super Mario alla simulazione dei mondiali in Sudafrica. E poi concerti dal vivo ed esibizioni dei più famosi cosplayer del mondo. Informazioni su www.videogamesparty.it. Allora, partiamo subito con Andrea D'Ambra, se siamo tutti d'accordo, buongiorno. Buongiorno a voi. Oggi sei presidente di Generazione Attiva, un'associazione in difesa dei consumatori. Sentiamo che cosa hai combinato nel 2006 nella scheda di Colletti. Se oggi in Italia non abbiamo più i costi di ricarica della telefonia mobile prepagata, lo dobbiamo al giovane Andrea D'Ambra e agli 821.000 firmatari della petizione online. Andrea, all'epoca 23enne studente alla Federico II di Napoli, fece partire una raccolta di firme su www.aboliamoli.eu. Correva l'anno 2006. Di lì a pochi mesi, nel 2008, dopo un intervento europeo, con un decreto governativo il balzello per le ricariche sarebbe stato abolito. Il tutto causando un mancato introito di centinaia di milioni di euro per le compagnie telefoniche, quelle stesse compagnie che avevano sottovalutato la mobilitazione in rete promossa da Andrea qualche mese prima. Oggi Andrea è presidente di Generazione Attiva, un'associazione in difesa dei consumatori. Beh, insomma, Giampaolo Colletti è stato un po' troppo buono, non, diciamo che non è stato lui da solo. No, è stata la rete. Prego! È stata la rete, sono state 820.000 persone, come ha sottolineato il collega. Ecco, ma sì, prego! E quindi è stata la vittoria della rete, la vittoria della mobilitazione della gente, dei cittadini che uniti possono davvero, se vogliono, possono riuscire a combattere colossi come appunto i gestori di telefonia mobile italiani. Ecco, diciamo che in questo caso ti è andata bene, però insomma è anche c'è un po' di ideologia in questo, nel senso di un'ideologia anche buona, cioè il fatto che tutti quanti possiamo unirci, possiamo far pesare le nostre opinioni. È vero, ma non lo vedremo nel corso della puntata, non è sempre vero. Oggi che cosa stai cavalcando, su che piani, in che territori ti stai muovendo? Oggi è un'iniziativa che sto portando avanti da quasi un anno e di certo non è più facile di quella combattuta contro i costi di ricarica dei telefonini, è quella che mira a pulire il Parlamento europeo dai condannati, un po' sulla falsa riga dell'iniziativa Parlamento Pulito Nazionale fatta da Beppe Grillo, visto che appunto in Italia come vediamo quotidianamente i cittadini non vengono ascoltati e non si risponde alle sollecitazioni dei cittadini, appunto giacciono 350.000 firme al Senato da diversi anni che chiedono l'ineleggibilità dei condannati, ho pensato di rivolgermi all'Europa anche in questo caso e le prime risposte stanno arrivando. Quante ne avete? Noi abbiamo raccolto già decine di migliaia di firme, sono state inviate decine alla commissione di milioni? Decine di migliaia. Ah, ecco, no, decine di milioni, impressionante, decine di migliaia, va bene. Sono state inviate appunto al Parlamento europeo e già si sta muovendo qualcosa. Questo mostra anche la diversa sensibilità appunto che hanno in Europa rispetto al nostro paese, rispetto ai problemi dei cittadini. E questo secondo me è un dato su cui riflettere. Passiamo ad Arianna Ciccone, buongiorno. Ciao, facciamo sentire, anzi proviamo a spiegare in una scheda che cos'è Valigia Blu. La valigia blu è quella di Arianna Ciccone, fondatrice del sito www.valigiablu.it, una valigia piena di firme. Ad oggi più di 200.000, frutto della mobilitazione popolare. Sono quelle dei cittadini raccolte in pochi mesi, dopo un servizio proposto dal TG1 sul processo Mills, quando fu data notizia dell'assoluzione e non della prescrizione. Notizia, sottolinea Arianna Ciccone, mai rettificata. Oggi Arianna, con la sua valigia, gira l'Italia. Una raccolta firme che esce dalla rete per abbracciare la cittadinanza. L'ultimo sit-in l'ha portata in Viale Mazzini, con un presidio davanti la sede romana della RAI. Allora, Arianna, tra l'altro ricordiamo, fondatrice del Festival Internazionale del Giornalismo, buongiorno. A te però la domanda, una domanda d'obbligo, cioè serve raccogliere le firme? Tu sei sicuramente uno dei personaggi più attivi sulla rete, su Facebook, guarda, posso dirti una cosa, in realtà come è andata veramente? Sì. Non è nata come una raccolta firme, è diventata per pressione della rete, nel senso che io avevo postato semplicemente sulla mia bacheca una lettera indirizzata al vertice RAI, all'ordine dei giornalisti, quella in cui si chiedeva la famosa rettifica. Dopo c'è stata una richiesta enorme di altre persone che volevano sottoscrivere la lettera, da lì è nato il gruppo, per cui si è trovata questa formula, questo escamotage per cui un'iscrizione al gruppo valeva come sottoscrizione alla lettera, e così è nata una raccolta di firme, ma a mia insaputa. Ecco, a parte, quindi non sei partita con l'obiettivo di raccogliere firme, ma oggi serve raccogliere firme? Questo è anche un po' un alzarti la palla sulla legge antibavaglio, cioè su quanto sta accadendo in rete, su quello che la rete sta cercando di dire, o una parte della rete chiaramente, non tutta. Guarda, io adesso sentivo anche l'iniziativa, quella sulle ricariche, eccetera, e mi sono ispirata, nel senso che effettivamente qui c'è pochissima sensibilità a livello istituzionale. Per dire, la nostra raccolta erano 200.000 firme in pochissimi giorni, 154.000 in 5 giorni, eppure i vertici istituzionali, cioè i vertici RAI, non hanno sentito il dovere morale, etico e istituzionale di rispondere a questi cittadini. Infatti. Cosa che in un altro paese non sarebbe stato assolutamente possibile, indipendentemente dal numero poi delle firme o meno, perché lì sono state mandate delle lettere, sono state mandate delle mail, e questi vertici non si sono degnati di rispondere, un'indecenza assoluta in questo paese, ma in altri paesi non sarebbe stato possibile. Quindi credo che questa roba serve mobilitarsi, serve raccogliere firme, ma non serve farlo ai referenti italiani, quanto appunto capisco a quelli europei. Quindi questa legge bavaglio, se passerà alla Camera e se il presidente Napolitano, come io non mi auguro, la firmerà, io credo sì che bisognerà andare avanti con la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, come tra l'altro già ha annunciato la Federazione Nazionale della Stampa. Gianpaolo Colletti, una domanda? No, più che altro un'affermazione. In realtà quanto più non si risponde, tanto più si genera rabbia e frustrazione nei cittadini. Così accade per una piccola raccolta firme, ma che sta diventando importante, per i fiumi Trebbia, Nure e Aveto, su notube.it. La mancata risposta dell'amministrazione comunale genera una moltiplicazione di firme, come nel caso della Ciccone. Però la domanda è anche questa: quanto può essere utile la collaborazione di network in rete o anche di blogger importanti, nel caso di D'Ambra con la presenza imponente e ingombrante di Beppe Grillo? Arianna Ciccone, hai 30 secondi prima del traffico. Secondo me è fondamentale la rete, quindi mettere insieme i blogger famosi eccetera, ma è fondamentale anche l'alleanza a rete mainstream tradizionali, carta stampata per esempio. Nova Lab 24. 16:46 minuti, abbiamo sentito insomma il lamento, ma anche la giusta osservazione di Arianna Ciccone su quello che poi è il risultato di certe raccolte di firme, cioè la mancanza totale di reazione da parte dei diretti interessati. Ora raccontiamo la storia di Simona Salvi, anzi di Altra TV.tv. La squadra di Michelino TV deve spostarsi di una trentina di chilometri ogni giorno per uploadare i video. Infatti, nel loro quartier generale a Besozzo, 10.000 anime nel Varesotto, non arriva la banda larga. Stesso problema per centinaia di altri micro network creati dal basso e accesi in piccoli borghi non raggiunti dall'ADSL. Fuori dalla banda larga restano 6 milioni di italiani, dati Istat. Confindustria afferma che ogni euro che si investe in banda larga fa guadagnare all'Italia un euro e mezzo. Fioccano le raccolte firme. Tra tutte si segnalano quella promossa dagli utenti di internet su www.antidigitaldivide.org e quella della Federazione delle Micro Web TV FEMI. Su www.femitv.tv si può firmare per richiedere un impegno concreto agli operatori TLC. Allora, qui mi sembra giusto tirare in ballo Coletti su questo tema qui. Sì, però qui la firma è più che altro una richiesta di un impegno morale. Qui servono soldi, o sbaglio? Servono soldi, ma la raccolta firme diventa anche un modo per far raccontare a chi vive questa problematica la storia quotidiana. In altre realtà di raccolte firme, in Italia si avverte questa esigenza. Dalla raccolta firme si passa a raccontare tante storie di ordinaria difficoltà. È un passo molto all'italiana, ecco. Ecco, Simona Salvi, ma tu hai mai ricevuto, insomma, telefonate da parte di operatori? Sì, andate avanti, spinge... No. Guarda, io come segretario della federazione, quindi delle micro web TV, ricevo tante telefonate, più che altro dalle web TV che ci segnalano quindi i loro problemi. E i problemi sono tanti, perché sono proprio le web TV a scontare il problema del digital divide, perché ad esempio, come è stato detto, quindi da Besozzo Michelino TV ha difficoltà, non può uploadare i propri filmati e deve scendere nel paese più vicino. E anche a Gergè, ad esempio, in provincia di Cagliari, gli amici di Sardinia Falm hanno anche la stessa difficoltà. Quindi sono tante le richieste che ci arrivano direttamente dalle web TV, che poi fanno servizio di pubblica informazione e che ci chiedono di farci promotori da parte loro di questa esigenza fortemente sentita. Sì, poi ricordiamola anche che, insomma, la banda larga diventa anche un moltiplicatore di non prosperità digitale, ma di business, per cui, insomma, non è solo un problema delle web TV, ma è un problema più allargato a tutta l'economia. Io a questo punto farei giustamente intervenire Guido Scorza, avvocato e una vecchia conoscenza, insomma, di Nova Lab 24. Buongiorno, avvocato Scorza. Buongiorno a voi e grazie dell'invito. No, grazie a lei. Anche perché quello che, dopo aver sentito tutte queste storie, la prima domanda è: ma servono queste sorte di class action digitali, cioè queste raccolte di firme che utilizzano la rete come strumento? Ma servono certamente a fare da amplificatore a distanze che vengono dal basso e auspicabilmente a produrre poi un risultato in termini politici. Sfortunatamente nel nostro paese non servono, servono quasi a nulla dal punto di vista strettamente giuridico, nel senso che ovviamente la nostra Costituzione prevede degli strumenti attraverso i quali i cittadini possono far sentire la loro voce e attivare dei meccanismi legislativi o di tipo abrogativo attraverso il referendum o addirittura di tipo propositivo, cioè la legge popolare, di iniziativa popolare, però le firme da raccogliere per attivare questi meccanismi sono sfortunatamente ancora oggi delle firme a inchiostro su carta e dietro presentazione di un documento cartaceo o a tutto voler concedere, ma sarebbe un esperimento ancora da fare, attraverso la firma digitale di cui tutti quanti conosciamo i limiti in termini di diffusione. Non c'è nulla, non c'è un progetto di legge, cioè fa paura l'idea che qualcuno possa organizzarsi attraverso internet, che poi debba uscire da determinati percorsi come quello di recarsi in un banchetto, usare la firma, il documento. Temo che la risposta sia esattamente nella domanda, cioè sì, fa paura, perché i numeri che ieri rendevano sostanzialmente questi strumenti inutilizzabili, cioè 50.000 firme per una legge di iniziativa popolare o piuttosto 500.000 firme per un referendum, ovviamente ieri erano appannaggio pressoché esclusivo di grossi movimenti politici. Sarebbe stato impensabile per un gruppo di cittadini mettere in fila e raccogliere davvero tutte queste firme. Oggi cambia molto, nel senso che 50.000 è un risultato che probabilmente, aprendo un gruppo su Facebook, si raggiunge nello spazio di una serata o al massimo di un weekend, e 500.000 è un risultato che molte delle storie che avete raccontato e delle altre che si leggono online dicono come accessibile. Questo fa paura, questo fa davvero paura. mondiali in diretta. Fine del primo tempo della partita di apertura dei mondiali Sudafrica-Messico. Non abbiamo ancora visto il primo gol mondiale. 0-0 il punteggio, dominio messicano, un gol annullato al Messico al 38esimo per posizione di fuorigioco di Vela. 0-0, ripeto, il parziale del primo tempo della gara di apertura dei mondiali. Allora, rientriamo al breaking news dei mondiali di calcio. Gianpaolo Colletti. Beh, però certo, l'avvocato giustamente evidenzia le difficoltà e l'impossibilità, una valenza giuridica della firma, però io da visionario mi viene da suggerire un paio di siti dove in realtà ciascun cittadino può creare la propria raccolta firme: petizionionline.it e firmiamo.it, e ognuno può farsi la propria casalinga raccolta firme, che magari non avrà valenza giuridica, però è una mobilitazione comunque popolare anche a livello di mezzo di comunicazione, ecco. Mi sembra giusto e doveroso il tuo richiamo. Un'ultima battuta velocissima: Scorza, non c'è il rischio che si dia un colore alla rete utilizzando questi strumenti? Ma probabilmente sono, come dire, strumenti sicuramente alterabili, sicuramente controllabili da parte di chi domani dovesse aggiudicarsi il potere mediatico anche online. Nella mia sensazione, quando si discute di strumenti di democracy come questi, diciamo, meno alterabili e meno modificabili di quanto non siano di quanto non sia una consultazione elettorale o una consultazione referendaria nel contesto dei media mainstream. Quindi è una carta sicuramente più da giocare, di cui vedo più facilmente i vantaggi che non gli svantaggi e i limiti. Io ringrazio Guido Scorza, ringrazio tutti gli ospiti che hanno partecipato alla trasmissione, un ringraziamento particolare a Gianpaolo Colletti. L'appuntamento è per lunedì alle 16:30. Nova Lab 24. Nova Lab 24.